al nostro ragionar. Siedi ogni cori, gli interrotti lavori riprendi e parla. Incominciasti un giorno a narrarmi i tuoi casi, il tempo è questo di proseguirti, il mio dolor seduci. Raddolcisci se puoi i miei tormenti, il lamentando i tuoi. Se avrà tanta virtù, senza mercedi non va la mia costanza. A te già dissi che Argene è il nome mio, che incredo io nacque di illustre sangue, e che gli affetti miei fuor più nobili ancor dei miei natali. So fin qui dei miei mali, ecco il principio del cretense sogno, licida il regio e rene fu la mia fiamma, ed io la sua. C'è l'anno prudente un tempo il nostro amore, ma poi l'amor sacrebbe, e come in tutti avviene la prudenza scemò. Comprese al puro il favellar dei nostri sguardi, ad altri mi sensi ne spietò. Di voce in voce tanto in breve si stese il maligno rumor, che il re l'intese. Se ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedervi, col divieto gli la crebbe il desio. Pensa di rapirmi e fuggì. Tutto il disegno spiega in un foglio, ma me l'invia. Tradisci la fede il messo e al re lo reca. E chiuso il custodito albergo il mio povero amante. A me si impone che a straniero consorte porga la destra. Io non ricuso. Altro riparo che la fuga o la morte a mio caso non trovo. Il mento onesto credo il più saggio e l'eseguisco. Ignota, inelide e perbene, in queste selve mi proposi abitar. Qui fra pastori pastorella mi fissi, or son l'icone, in vermi fai pietà. La tua fuga non approvo però, donzella è sola a cercar contra di me, abbandonare quel dove non amma Megacle donò. Megacle, tuo nome, e di qual Megacle parli? Lo sposo questi che il re mi destinò, dove adunque obbligò. Ne so la patria, come in Creta pervenne. Amor del trasse, come stesso dicea, Ramingo afflitto. Nel giungio di tuo colmo, da stuol di masnadier, e appresso mai la vita mi perdea. Dici da sorte mi si avvenne e il salvò, quindi fra loro fidi amici pur sempre. Amico il figlio fu dopo il padre, il reale impero destinato mi fu, perché straniero. Ma ti ricordi ancora le sue sembianze? Io l'ho presente, avea bionde vele chiome, oscuro il ciglio, i labbri vermigli sì, ma tu mi detti, e forse ho ben dov'è, gli sguardi un arossir frequente con soave parlò. Ma, principessa, tu cambi di colore, che avvenne? Oh Dio, quel Megacle che pinti è l'idol mio. Che dici? Il vero, a lui lunga stagione, già mio segreto amante, perché nato in Atene, e come il padre mio. Volle mai conoscerlo, vederlo, ascoltarlo una volta. E disperato da me partì, io non rividi. In questo punto da te sono c'è casi il resto. In ver sembrano i nostri favolosi accidenti. Ah, se sapessi, oggi per me qui si combatte. In Creta, lui vuole un tuo servo,